Box 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica. Franco Schipani e Alessandra Fiori vi porteranno nel 2007. Ma prima vogliamo ricordare un protagonista della politica italiana scomparso un anno fa. È Marco Pannella, leader dei radicali, grande lottatore, provocatore, oratore instancabile. Ha portato avanti le grandi battaglie del nostro paese, dal divorzio all'aborto. Lo ricordiamo facendovi ascoltare una parte di un faccia a faccia del 1980. Qualcuno pensa che il tuo vero ruolo, quello più congeniale, sia stato quello di presidente dell'Unione Gogliardi Italiani. Che ne dici? Non amo i ruoli, né nella politica, né nella vita privata, né in Parlamento né a letto. Ti hanno accusato di tante cose, di essere un esibizionista, un narcisista, un guitto, un pagliaccio, un istrione, un buffone, un mitomane, un avventuriero, un provocatore, tante altre cose. Vox Populi o una macchinazione del palazzo? O Vox Dei, se Dio fosse arrabbiato con i radicali, ma non lo è. Dico semplicemente che hai dimenticato qualcosa e non so perché. Drogato, sterminatore di bambini e omosessuale. Perché li hai dimenticati? Macchinazione del palazzo? No, semplicemente paura e forse farsi di me uno specchio per le loro esistenze e i loro demoni interiori. Sono tue parole anche queste. Tendo a unificare su valori precisi. Quali? Ma io direi quelli semplici, antichi, libertà, giustizia, non violenza, amore, pace, democrazia, questa litania un pochino smessa, ma della quale io ho il coraggio. Ti sei più volte autodenunciato, è tutta la vita che ti proclami vittima, lo dici tante volte che alla gente non viene quasi più in mente di chiedersi se è vero. Dici che la Rai TV non ti dà spazio, però sei uno di cui si parla sempre e sei qui. Come la mettiamo? Sai, se si parla sempre di noi radicali è perché se andiamo una volta ci mettiamo il bavaglio e se ne parla per anni. Ma se mi consenti, non ho mai detto di essere vittima. Ho sempre dimostrato che il tentativo di fare di noi e della legge delle vittime non riesce. Perché non siamo conniventi con i torturatori, noi gridiamo se necessario. Qualcuno dice che proponi solo referendum perché non sai elaborare veri programmi di gestione. Cosa questo risponde? Qualcuno probabilmente è un mister referendum, preferisce i referendi ai referendum. Io rispondo che le battaglie di liberazione nel nostro paese passano attraverso l'abrogazione delle cattive leggi e solo così Costituzione e Repubblica e anche i diritti e qualità della vita del cittadino possono affermarsi. Ti hanno accusato con il referendum di giocare allo sfascio delle istituzioni. Cosa rispondi? Rispondo che noi siamo gente di governo, dei sentimenti e delle situazioni e governiamo anche la vita della città lì dove cattive leggi le impediscono probabilmente pace e tranquillità. Poi, come è accaduto anche per il finanziamento pubblico dei partiti e per la legge reale, questi referendum li perdi anche. Perché insisti? Non metti nel conto il divorzio e non metti nel conto che eravamo l'1%, avevamo il 43% sul finanziamento pubblico e il risultato fu che la classe politica, un tantino spaventato, mandò a casa Giovanni Leone e elesse Sandro Pertini. Ti pare che li perda? Ecco, un'ultima domanda che forse non c'entra niente, ma in questa vita così complicata hai il tempo per l'amore? Ma ti pare che la mia vita sia complicata? Quella forza politica che parla delle notti e dei giorni, del sesso e delle altre cose, tu credi che quella forza politica potrebbe essere così forte e la mia vita così piena e ricca se non avessi la necessità costante di essere in amore, di vivere con e per amore? Le notti e i giorni, i letti e i parlamenti sono luoghi tutti importanti e se lì non c'è il dialogo, libertà, responsabilità, amore, senza ruoli, credo che lì non c'è un radicale che possa andare avanti. Grazie. Tra poco, il 2007, tra storia e musica. Ma prima, come ogni venerdì, vi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Senti, ma tu la senti la necessità costante di essere in amore? Cravetto, ma certo che la sento. Le notti e i giorni, i letti e i parlamenti sono luoghi tutti importanti, ma che bello. E soprattutto l'amore senza ruoli. Magari, diciamo, ci fosse una visione molto aperta. Vabbè, Cravetto, ti posso dire, ma anche meno. Cioè? Anche più chiusa e con i ruoli a me andrebbe benissimo. No, non ti disperare così, dai. Mai, no, mai. No, no. Però... a proposito di ruoli, hai visto che è uscito il nuovo rapporto Istat? Tu l'hai letto tutto, no? Io come al solito ho letto soltanto titolo e occhiello di Repubblica. Strano. Allora, addio borghesia e operai, ecco le nuove nove classi sociali, sono diventate nove. Nove, vabbè, sì. In sostanza, Krav, aumentano le diseguaglianze, fine della mobilità tra una classe e l'altra. Ma io volevo farti una domanda. Dimmi. Ma quando mai c'è stata mobilità? Cioè, da sempre il figlio dell'imprenditore diventa imprenditore, il figlio del medico fa il medico, il figlio del barone fa il barone. Decaduto, sì. Sicuramente decaduto. Comunque, abbiamo la quota over 65 più alta d'Europa e 7 under 35 su 10 sono ancora a casa con i genitori. Riassumo? Sì. Vecchi e bamboccioni. Ma come sei prosaica? Io ti suggerirei come capo della comunicazione del ministro Poletti. Beh, non sei l'unica, perché secondo te, scusa, la battuta del cacetto da chi l'ha presa? Era tua quella era del mia, cacetto? Non male, non male. Tornando alle suddivisioni, i due sottoinsiemi, parlo di quelle dell'Istat, i due sottoinsiemi più numerosi sono quelli delle famiglie di impiegati, sì, appartenente alla fascia benestante, e delle famiglie degli operai in pensioni, fascia a reddito medio. Ecco, invece a me mi ha colpito molto la categoria dei provinciali. Perché sei la solita snob, però ti do una notizia, sei anche una provinciale. Ma sono felice di esserlo, perché secondo l'ultima ricerca Istat, i provinciali sono quelli che se la passano meglio, perché a parità di stipendi, sì, la vita in provincia è molto meno cara, per cui stai molto meglio. Ma torna a Turin. Ma volentieri. Ma a proposito di... no, non ci lasciare mai. Ma a proposito di provinciali, in realtà pare che non ci sia più spazio neanche per i ricchissimi provinciali. Sei fuori, sei fuori, sei fuori. Eccolo, Briatore, è lui, simbolo del provinciale di successo, infatti come sai bene è di Cuneo, sì, e si sta automandando fuori dall'Italia. Hai letto, no? Certo. In Puglia non hanno proprio senso del management. Management. Perché hanno queste pensioni una stella. Ma non è vero. Dove sono i proprietari che rubano gli asciugamani a te. Ma cosa dice? Ma non è vero. Ma no, questa... L'aria condizionata... La fanno con come? I buchi delle finestre, delle sparatorie, dell'andrangheta. Ma la smetta, guardi. Sono pensioni a conduzione familiare, magari, tra l'altro sono carine, ci si trova bene, no? Sì, sì, trovi bene se sei un topo, ma una no, blatta o uno statale, ci stai alla grande. Ma cosa c'entra lo se statale? Se tu sei una regione Puglia che mi vuoi cambiare target, ma devi capire detto... che il tempo della pensione Mariuccia è finito, che sì, muove. Hai capito? Questo naturalmente era il Briatore versione crozza, però il vero Flavio Briatore, sì, ha detto che vende tutte le sue attività in Italia perché c'è troppa burocrazia. Ha ragione. E che se c'è qualcuno insomma interessato si faccia avanti. Insomma, interessato a cosa esattamente? Beh, al Twiga, una serie di attività. È un'idea, ti fai avanti? Ma magari. Però seppure i Briatori non sostengono più il peso della nostra burocrazia, cioè voglio dire, siamo messi davvero malissimo. Sì, comunque devo dire che è un periodaccio per Briatore. Perché? Perché un po' se ne vuole andare via dall'Italia, ma soprattutto ha detto, dopo che avevano detto che tra lui e la Gregoracci non andava c'era tanto Maretta, bene, esatto, che non si separa dalla Gregoracci non tanto per amore, perché? Ma perché gli costerebbe troppo. Ma lo vedi che allora ha ragione l'Istat, c'è grande confusione anche all'interno delle classi sociali, perché il non separarsi per il costo troppo elevato è un tema sempre più presente. Non mi separo perché costi troppo. Cravetto, siamo sicure che Briatore però vada tra i provinciali di successo? No, perché secondo te Cuneo è una metropoli? Cioè, ma fammi no, capire. No, no, Briatore voglio dire che è di più, lui fa categoria a sé stante. Hai ragione, lui fa la categoria dei i-Briatori. I-Briatore con l'articolo. Ma lo sai poi come si riconoscono? Da cosa? Dalle babbucce di velluto con marchio dorato, calzate naturalmente a pelle. E ora che ci penso, Krav, mi è venuto in mente perché vedo i tuoi piedini puntare da sotto il tavolo e sono un po' come le tue. Sì, però la differenza è che io sono velluto uguale, portate a pelle uguale, ma no logo, cara. Wow, senti che citazione, Naomi Klein, mi citi così. E allora adesso io le tue babbucce le posto, tra poco le trovate. Le vedrete tutti. Senti, altro che tacco 12. Però adesso dimmi, che cosa mi vuoi dire? No, ancora? Volevo dirti una cosa. Ma Briatore che se ne vuole andare dall'Italia, sì, ma nessuno gli ha detto che se n'era già andato da mo'. Sì, in effetti, scusami, no, ma lui vive... Lui vive a Monte Carlo. Sì. È diventato cittadino monegasco. Monegasco. Quindi paga, dove vai che te ne sei? Sei brava, già fuori. Sei già fuori da mo'. Adesso però io ti porto in provincia, in una provincia bellissima, ricca, affascinante, ricca non direi, però ti ci porto perché ti racconto una storia molto molto bella. I ragazzini camminano ai margini di una strada nel sud della Spagna. Dai pantaloni di uno dei due sbuca il manico di un punteruolo. Inizia così Carne mia, l'ultimo romanzo di Roberto Alaimo, ma l'incipit è il culmine di una storia iniziata in Sicilia negli anni 90, dove la famiglia Montana vive grazie a una bancarella di frutta e verdura nel Borgo Vecchio, che sembra un paese a sé stante soprattutto per quanto riguarda la sfera morale. Quando c'è un problema, infatti, si va in carnezzeria, dal macellaio, dal signor Pino, che rilascia pareri che valgono come sentenze. È a lui che si rivolge Mela quando suo marito scompare misteriosamente nel nulla. Roberto Alaimo, personaggi come quello del signor Pino, quanto sono ancora reali nella Sicilia di oggi? Sono talmente reali che il, tra virgolette, signor Pino del quartiere Borgo Vecchio, dove si svolge il romanzo, nella realtà è stato arrestato un annetto dopo che avevo scritto il romanzo. Ecco, tu hai detto che l'espressione più confacente della mentalità che volevi raccontare è quella del familismo amorale, ovvero? È un'espressione che, pensate a raccontare qualcosa che non è soltanto siciliano ormai, ma credo che sia sensibile all'intera Italia, e cioè quel genere di concezione per cui tutto quello che si svolge all'interno del cerchio familiare è sacro, tutto quello che avviene un passo fuori è invece da disprezzare e forse anche da distruggere in casi estremi. In Sicilia questo è molto evidente, basta entrare in qualsiasi casa siciliana e si vede un contrasto molto evidente fra la manutenzione degli interni e la trascuratezza delle facciate, la pulizia di ogni appartamento che contrasta una sporcizia delle strade. Io dico sempre che lo stuoino nelle case siciliane non solo sta lì per pulirsi i piedi quando si esce, poi in realtà, perché c'è all'interno di questa estrema pulizia una sporcizia morale, e questo è soltanto uno degli aspetti del familismo morale. Tu appunto parli della famiglia dei Montana, sono i protagonisti del libro, ed è una famiglia patriarcale all'apparenza, ma matriarcale nella sostanza. Ce ne sono ancora molte di famiglie così? Ce ne sono molte, perché è un retaggio veramente ancestrale della Sicilia. Probabilmente alla base c'è un matriarcato legato all'agricoltura che era vivo in Sicilia in tempi preistorici, e però tutto questo si coniuga con una modernità che è arrivata anche qui. Televisione, internet sono arrivati anche nel più sperduto paese della Sicilia. Questo non significa che la Sicilia antica è scomparsa, semmai è diventata più complessa e anche più interessante da raccontare, proprio perché la modernità e la Sicilia più arcaica assieme fanno una reazione che porta a un impazzimento. Tu hai raccontato che la trama del tuo libro nasce da un fatto di cronaca e che la parte più difficile è stata non tanto trovare il tempo, quanto piuttosto la concentrazione. Di che tipo di concentrazione hai bisogno come scrittore? Ho bisogno di non avere pensieri collaterali, e poi spesso, come hai detto tu, lo spunto, specialmente in Sicilia, viene dato da storie vere, storie autentiche, storie che sfrecciano dai giornali senza certe volte lasciare traccia, e questa mi è sembrata una delle storie più appassionanti. Io la racconto abbastanza fedelmente nella prima parte, poi in maniera molto romanzesca nella seconda, quando immagino i pensieri che passano per la testa di un ragazzino che scopre che quello che lui ha adorato come padre per tanti anni in realtà non solo non è il suo vero padre, ma è l'assassino del suo vero padre. E un'ultima domanda: tu hai detto che vivere e lavorare al sud è ancora sempre difficile, e hai esortato tuo figlio a partire. Se rimango, hai detto, è per consentirgli di salvarsi come nei western: scappa, mettiti in salvo, io sono spacciato, ti copro le spalle. Davvero chi resta è spacciato? Ormai ho quel genere di età per cui potrò andare via soltanto quando la pensione mi consentirà di ritirarmi in un paese dove la tassazione è meno alta. A parte lo scherzo, però è vero che noi genitori siciliani della mia fascia d'età, io ho 57 anni adesso, ci comportiamo un po' come nel mito fondante di Superman, no? Ci sono due scienziati, una coppia di scienziati che capiscono che il pianeta Krypton sta per andare a buttare, e allora mettono il figlio sulla, sulla navicella spaziale che contiene soltanto questo bambino e lo sparano nel pianeta che ha un'atmosfera più simile a quella di Krypton, cioè la Terra, e loro rimangono poi coinvolti nel tracollo del pianeta Krypton, mentre questo ragazzino va sulla Terra e diventa Superman. Un pochino funziona così, i ragazzi siciliani vanno fuori e trovano la loro strada, mentre noi siamo qui in qualche modo a fronteggiare il disastro. Grazie Roberto Alaimo, carne mia, Sellerio. Un'analisi cruda, lucida, insomma, amara. Abbastanza, sì, sì. Però io devo dire un'altra cosa. Ecco, il tuo però è sempre preoccupante, dimmi. Che qui parlava della Sicilia, della sì. difficoltà, però obiettivamente questo è un discorso serio. Sì. Diciamo che è allargabile anche al resto d'Italia, perché se prima era dalla Sicilia al nord, adesso è dall'Italia all'estero. Cioè, i nostri ragazzi andranno e ci dovremo anche noi inventare una criptonite per mandarli fuori ben strutturati. Cioè tu dici che fra un po' prima sud-nord, adesso estero Italia, su mondo. Mondo, e fra un po' mondo, altro pianeta anche noi. Esatto, Marte magari. Marte, però non c'è problema, perché è sempre l'Istat, io oggi ce l'ho con l'Istat. Racconta. L'hai letta che bene. L'ho studiata, perché l'Istat racconta che nel 2016 si è registrato un nuovo minimo delle nascite, ecco, in Italia, 474.000. Tutto? Sì, pochi. Il saldo naturale, pensa, ha studiato anche questo, cioè la differenza tra nati e morti, segna il secondo maggior calo di sempre, ovvero meno 134.000 rispetto al 2015. Senti, basta pensare ai bambini, ai neonati, a tutte quelle no. cose lì, perché alle mamme chi ci pensa? Ma tu, Cravetto! Non sembra più mia mamma, tra perizoma e tanga, fai selfie mentre balla. Allora, ti voglio parlare di una mamma che è molto smamma, che si chiama Giada Sundas, ed è la mamma più famosa del web perché racconta la sua vita di mamma stanca. Ma povera, povera, mica come noi, sempre in forma, sempre pimpanti, sempre al top. Esatto. Lei è stanca, strano. Lei è stanca, allora, da 2 anni, cioè da quando è nata la sua bambina, sì. ha tenuto una specie di diario sulla maternità, è ovviamente un diario molto buffo, molto divertente, sì. molto irriverente, ed è seguitissima perché ha raggiunto 18.000 follower. E che vuoi che sia 18.000? Niente. Quanti ne hai tu? 4, 5. 6, 7. Vabbè, comunque oggi ne ha 18.000 più 2. Esatto, che siamo noi. Siamo noi. Allora, ti leggo un pezzettino di uno dei post che tra l'altro è uno di quelli più famosi perché è arrivato a 30.000 visualizzazioni. Allora, lei dice: ci saranno giorni in cui lo tirerai giù dal letto urlando, gli farai fare colazione con gli avanzi di cibo che troverai in macchina, gli laverai la faccia nella fontanella della scuola. Ci saranno i giorni in cui lui però ti farà i complimenti per i fusilli olio e parmigiano. Ci saranno giorni in cui intonerai la più soave ninna nanna. Ma non ci saranno mai e poi mai giorni in cui tu mamma potrai andare in bagno da sola. Ah, questo è verissimo, non è stupendo? È stupendo, verissimo, insomma, è finita. È finita, tutti questi post oggi sono diventati un libro che si chiama Le mamme ribelli non esistono, edito da Garzanti ed è uscito la scorsa settimana, avrà sicuramente un successore. Guarda, finisco Bambine ribelli e passo a questo. Esatto. Va bene? Esatto. Senti, ma io mi chiedevo, ti piace andare in bicicletta te? Non ho capito in che senso. Ti piace pedalare? Ah, ma tantissimo, io non vedo l'ora di riprendere la mia bicicletta fiammante mai usata. Allora ascolta questa startup perché fa per te. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Matteo Spaggiari Emiliano, ingegnere meccanico, con suo fratello Luca ha creato Bikey Bike, un kit fatto di un motore e una batteria che, applicati ad una bicicletta normale, la trasformano in bicicletta elettrica. Matteo, quando è nata l'idea di Bikey Bike? l'idea è nata nel 2013, all'epoca lavoravo per una multinazionale americana e mi ero reso conto che mancava qualcosa nel settore delle biciclette elettriche. In particolare vedevo che le biciclette elettriche si fermavano proprio quando le persone avevano più bisogno di loro, quando si trattava di affrontare le salite. Di lì è nato il progetto Bikey Bike. Ecco, quindi il tuo motore di Bikey Bike rispetto agli altri motori applicati a biciclette elettriche, che cos'ha di particolare? Come è fatto? Ha proprio la particolarità di essere in grado di affrontare qualsiasi salita, quindi una grande coppia motrice e un motore che noi abbiamo abbinato con due corone, quindi dà anche la possibilità di cambiare marcia come se fosse una normale bicicletta elettrica, mantenendo il cambio della bici che si ha. Quindi a seconda dell'inclinazione della salita puoi avere un passo diverso? Esatto, e questo permette al motore di lavorare sempre nella zona di massima efficienza. Quindi cosa fa? Dà la possibilità di sfruttare al meglio la batteria, che quindi dura di più. Il kit che voi fornite dentro ha un motore, una batteria, e poi come viene controllato ad esempio il livello di consumo della batteria? Tutto il kit è smart, quindi è connesso tramite un'app al cellulare. Quest'app permette sia di visualizzare i dati del motore, della batteria, lo stato di salute, i cicli di ricarica, che anche di andare a impostare il livello di assistenza e anche la modalità di erogazione del motore. Quindi lo controlli dal telefonino? Esatto, e in più fa anche da antifurto. Cioè? Con un tasto è possibile bloccare il motore, quindi anche nel caso in cui la bici dovesse venire rubata è possibile bloccarlo e quindi chi l'ha rubata non può più utilizzare il motore. Ma il motore e la batteria però sono estraibili una volta che vengono, esatto, applicati sulla bicicletta, cioè te li porti via a casa volendo? Esatto, nella batteria c'è un lucchetto, quindi si può lasciare montata chiusa a chiave oppure si può smontare, portare in casa e caricarla in casa comodamente. Ecco, e la batteria da quanto è e quanto dura? Abbiamo diverse versioni delle batterie che si abbinano a diverse versioni di potenza del motore. Abbiamo dal 250, che è la versione legale in Europa, fino al 1000 watt, che è la versione che è legale in America. Uh-huh. Abbiamo fatto in modo che la batteria durasse 45-50 km nella versione 250, con assistenza muscolare minima, quindi con minimo sforzo della persona. Chiaramente se la persona pedala normalmente queste percorrenze raddoppiano o triplicano. E come si ricarica la batteria? Si ricarica con un caricabatterie simile a quello di un cellulare. E quanto pesa tutto quanto? 7 kg per la versione 250 e 8,5 kg per la versione 1000. Tutto incluso. E questo kit è facilmente applicabile a tutte le biciclette? Sì, quello che ci contraddistingue è proprio questo, cioè la capacità di poter installare il kit in pochi minuti, tipicamente meno di un'ora per gli utenti meno esperti. Quindi anch'io sarei in grado di farlo su una bicicletta normale? Esatto, diciamo che il punto più critico è quello di sfilare il movimento centrale, perché si applica proprio in quel punto, quindi diciamo tra le due pedivelle della bici. Quello è il punto più critico, però qualsiasi negozio è in grado di fare questa conversione in pochi minuti. Quanto costa il kit base, quello con la batteria più bassa? Partiamo dai 1.300 più IVA per la versione 250. E dove lo vendete? Per adesso online, e ci stiamo attivando per attivare tutta la rete di rivenditori sul territorio italiano. Senti Matteo, tu sei originario emiliano, proprio delle parti tra Piacenza e Rimini, che come noto viene chiamata la Valle dei Motori. Esatto. Ecco, l'idea di andare a pedali era inaccettabile? Era inaccettabile fino a 20 anni fa, poi il mondo va avanti e anche noi che siamo innamorati del motore a scoppio ci siamo resi conto che il motore elettrico in realtà è superiore per efficienza, consumi e inquinamento, e quindi può dare una grande mano soprattutto nelle aree urbane e nelle città che sono congestionate. Beh, cravetto fantastico, scusa, loro trasformano le biciclette normali in bici elettriche, ovvero l'unico modo di usare la bicicletta. Vedi che io ti penso sempre. Little Freddy, I've got an answer to him. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be red, I could be black, but I could be anything you like. Ciao Frankie, arrivi con Grace Kelly e Mika. Ciao Ale, ciao Ale. Ciao Frank. Ma perché no, perché no? Che canzone meravigliosa. Poi insomma, Grace Kelly credo che sia anche un vostro idolo, no? Da sempre. Non è provinciale, assolutamente. No. La Kelly no. No, lei no. Diciamo che ha attraversato tutte le classi sociali. Tutte le province. Tutte le province americane e non. E questo Mika infatti ha anche lui superato tutte le grandi difficoltà, arrivato dal Libano, pensate. Sì. E con questa canzone si è piazzato, penso uscito nel 2007, si è piazzato al primo posto anche nel Regno Unito, dove è rimasto lì in classifica primo per 5 settimane. Cioè, in classifica. Posso fare una richiesta? Dai. Posso chiedere a Chiappini se rialza un attimo, perché la cravetta mi ha fatto una promessa. Siete pronti? Sì. Per favore, filmate questo. L'ho cantata benissimo. Ma sei bravissima. Non sapevo. Anche no. Possiamo fermarci qui. Però dicevi anche che ti piace perché tu hai un'anima musicale sofisticata. No, io sono nettamente commerciale. Ma dai! Molto commerciale, mica il mio idolo. Va bene. Commerciale. Senti, o provinciale a seconda dei punti di vista. Dicevano insieme? Sì. No, assolutamente no, questo no. Senti, Frankie, tu sei pronto per andare nel 2007? Sono pronto, e ti consiglio, cara Cravetti, di ascoltarci oggi, perché è una puntata molto commerciale. Lo farò. Pensavo dicesse farò. Molto provinciale. Va bene, salutiamo la nostra Ale Cravetto. Ciao ragazzi! Con le sue babbucce. E Franco Schipani senza patocco. Senza patocco. Il logo è detto alla calabrese. Alla calabrese. Esatto. Okay, vabbè. Abbiamo tutte le sfumature della provincia. Pure sfumature d'Italia, pure la mia. Va bene. E allora noi ci risentiamo subito dopo la pubblicità nel 2007. A più tardi. Ciao. Ciao.